Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buongiorno cari amiche e cari amici, oggi solleti con l'attenzione soprattutto degli ascoltatori meridionali, ma segnalo un libro che non mancherà di interessare tutti coloro che hanno curiosità intorno al modo in cui si è formato l'Italia Unita e che hanno seguito le polemiche che certo non sono mancate in occasione del 150enario dell'Unità d'Italia che abbiamo festeggiato quest'anno, polemiche animate non soltanto a nord da Bossi e dalla Lega ma anche a sud da tanti intellettuali, storici e politici che hanno preso le distanze dal Risorgimento, hanno denunciato l'unità come una conquista imperiale colonialista del Piemonte, hanno lamentato la durezza del nuovo regime, hanno rimpianto addirittura gli anni beati dei Borboni e hanno accusato il nuovo regno di aver sfruttato il sud. Insomma, si è consolidata una linea revisionista alla quale risponde il libro che adesso vi propongo, quello di uno storico siciliano, Salvatore Lupo, intitolato L'unificazione italiana, Mezzogiorno, rivoluzione, guerra civile, pubblicato da Donzelli, 184 pagine, 15,50 euro. È proprio il revisionismo che preoccupa Lupo, perché a suo parere i partigiani del nord, leggo dal suo libro, come d'altronde quelli del sud, usano le rappresentazioni dualistiche per accreditare l'idea di una inconciliabilità delle due parti, per negare l'esistenza dello spazio comune, l'Italia. Il Risorgimento, scrive Lupo, fu un fenomeno complesso e rappresenta una parola che occulta le contraddizioni dei patrioti, l'alternarsi di solidarietà e faziosità, l'amore per la libertà e autoritarismi, che derivava dal carattere passionale ed estremo delle convinzioni che le sostenevano, nonché dalla violenza dello scontro in cui essi stessi e i loro avversari erano impegnati. Insomma, il Risorgimento fu un'autentica rivoluzione, con tutti i drammi e le contraddizioni e anche gli orrori, naturalmente, che caratterizzano queste fiammate, orrori che, ricorda Lupo, non furono certo esclusiva dei piemontesi, la cui reazione comunque alla fine si incanalò negli argini di uno Stato di diritto. Ma sentiamo l'autore. Buongiorno a Salvatore Lupo. Buongiorno. Professor Lupo, lei nel suo libro approfondisce la natura profondamente diversa che ci fu negli atteggiamenti politici da un lato della Sicilia, dall'altro lato di Napoli e del resto del Mezzogiorno. Ecco, questa differenza di atteggiamenti, di convinzioni, di posizioni, come si tradusse poi nelle posizioni che assunsero queste aree del sud nei confronti del Risorgimento e dell'Unità? Ma bisogna dire che intanto che nel sud non c'è un problema di lotta contro lo straniero, perché stranieri, gli austriaci non c'erano al sud. Invece c'è un problema di identificare dove sta la patria, e sicuramente a Napoli o a Palermo si aveva un'idea di patria molto diversa, perché l'unificazione tra Napoli e la Sicilia era una creatura del Congresso di Vienna e non era assolutamente un'idea popolare e non c'era un passato cui riferirsi di questo genere. Ecco perché nel passaggio tra questa idea di patria e l'ingresso di un'idea di patria italiana, la Sicilia finisce per essere il luogo in cui il Regno delle Due Sicilie crolla, il luogo che il Regno delle Due Sicilie non aveva mai potuto acquisire o domare. Ecco, parlando di tutti i movimenti contro l'unificazione, lei mi pare non usi mai il termine insorgenze, ma insomma del banditismo e di tutti gli altri episodi, lei sottolinea come ci siano molti spunti che siano riconducibili a una forte motivazione politica. Essere filo Borboni e contro l'Italia aveva appunto una motivazione non soltanto dettata dagli interessi. Ma sì, certamente, perché no? È evidente che Stato borbonico aveva delle fedeltà, in alcune zone del regno, non in tutte, c'era un'antica tradizione del re come difensore del popolo, delle plebi o dei contadini se vogliamo, e questo elemento giocò in un contesto, come dire, di identità plurime, cioè in cui ci sono diverse possibili identità politiche che si vanno poi a scontrare. Ma basterebbe pensare al diverso ruolo che ha l'idea di Costituzione in Sicilia e nel Mezzogiorno continentale. In Sicilia l'idea di Costituzione è un'idea popolare, perché si pensa alla Costituzione antica e quindi questo serve da ponte per la Costituzione moderna. E invece nel Mezzogiorno continentale l'idea di Costituzione resta un'idea borghese, delle classi superiori, e viene vista con grande sospetto in ambienti popolari in cui si teme che attraverso la Costituzione si instauri la dittatura dei proprietari. Sono tutti possibili contrasti che poi danno luogo a processi rivoluzionari, controrivoluzionari e di guerra civile, in cui poi alla fine finisce per prevalere un'idea di patria e di Costituzione più ampia, quella italiana, quella liberale. Ecco, a un certo punto poi nel suo libro si parla di camorra e poi anche di mafia, e lei sottolinea la funzione parapolitica che la mafia conserverà sul lungo periodo. Alle sue origini invece sarà presente un sottoprodotto della congiuntura politica in senso stretto. Ecco, quindi comincia da lì l'infiltrazione malavitosa nella politica italiana. Questo è un tema complesso, perché sicuramente una dimensione criminale in questi scontri, in questi conflitti politici c'era già prima. E d'altronde, se noi ci riferiamo alle insorgenze filoborboniche col termine brigantaggio, una ragione c'è, perché in realtà anche quelle erano laterali con fenomeni criminali. Bisogna dire che la società meridionale del primo Ottocento era una società in grande subbuglio politico, sociale e criminale, che il regno borbonico non riuscì mai a sedare, subbuglio. Invece, in qualche modo, il Regno d'Italia, nato nel 1861, riuscì a ristabilire un ordine, però riuscì a ristabilire quest'ordine venendo anche a patti con alcuni dei gruppi politico-criminali che si erano fondati nel si erano formati nel cinquantennio precedente. Nella citazione che lei ha fatto, io rilevo che alle origini questi sono fenomeni davvero di violenza politica. Nel tempo invece vengono ad assumere una funzione parapolitica, ovvero servono a collaborare alla difesa di un certo ordine. Lei conclude il suo libro ricordando le parole di Ernest Renan, secondo il quale l'appartenenza è fatta non soltanto di memoria condivisa, ma anche di oblio condiviso. Ecco, che cosa dovrebbe dimenticare oggi il Sud per essere parte convinta dell'Italia? Io ho rilevato che nel periodo post-risorgimentale si forma quello che possiamo definire una vulgata, un senso comune, secondo il quale il risorgimento è la rivolta di tutto un popolo contro una tirannide straniera, una volontà compatta in cui il popolo risorge e libera se stesso. Allora, questo è un grande mito, come tanti miti che hanno mosso i popoli, ma ovviamente, come tutti i miti, si basa, lo diceva Renan, sulla memoria di qualche cosa e sull'oblio di qualche cos'altro. È un'idea della storia che fa identità, che serve per creare un'identità o per ribadirla. Questo noi dopo 150 anni non ne abbiamo bisogno più. Noi abbiamo bisogno di credere in ideali condivisi e di avere una visione realistica della storia, non censurata, non stupidamente rovesciata come fanno spesso i cosiddetti revisionisti, ma sobria, non pudica, ma coraggiosa. Se c'è che ricordi il fatto che le guerre civili esistono, che esistono le rivoluzioni, che in questi passaggi spesso sono aspri e sanguinosi, e che da questo coacervo nascono i popoli, nasce la modernità e diciamo anche il progresso. Grazie a Salvatore Lupo, autore dell'Unificazione Italiana. Buona domenica. Grazie a voi. Un altro storico che vuole rimettere le idee in ordine smontando alcune interpretazioni discutibili di Comodo sul Risorgimento è Massimo Teodori, col libro Risorgimento laico, gli inganni clericali sull'unità d'Italia, pubblicato da Rubbettino, 170 pagine. Teodori denuncia in questo libro, pubblicato, riconosce lui stesso, in una società altamente secolarizzata, se non addirittura scristianizzata, come scrive, come quella attuale italiana, la dilatazione dell'influenza clericale che egli denuncia e che secondo l'autore dovuta all'acquiescenza sia da parte della destra che della sinistra alle gerarchie ecclesiastiche. E allora Teodori vuole controbilanciare le attuali riletture storiografiche del Risorgimento, le riletture che sono sempre in senso antiliberale e antilaiche e che sono state diffuse anche da esponenti autorevoli della Chiesa Cattolica a partire dallo stesso pontefice regnante. Il nuovo Stato, ricorda Teodori, nacque laico e tanto la destra storica che la sinistra emanarono sempre leggi rigorosamente laiche, vedendo nella Chiesa un ostacolo. E quindi Teodori esamina la lettura del Risorgimento di Benedetto XVI, quella del cardinale Biffi, entra nella guerra delle parole tra laico e laicista e poi sviluppa un'analisi sulla storia del Risorgimento partendo da Cavour fino poi alle linee del radicalismo anticattolico di Garibaldi, Cattaneo, Cavallotti, e conclude il libro un'interessante antologia di documenti dalla Costituzione della Repubblica Romana del 1849 fino al discorso che il presidente Napolitano ha tenuto al Parlamento riunito in seduta comune il 17 marzo di quest'anno. E a questo punto il confettino. Rimaniamo in tema col libro Italia che storia, 118 pagine, pubblicato da Franco Cosimo Panini, 14 euro, e illustrato da Agostino Traini. Come è nata l'Italia, che cos'è la Costituzione, come è fatta l'Italia, come parlano gli italiani, infine che cosa rappresentano il nostro inno e la bandiera. Insomma, una guida completa per i giovani cittadini, allegra ma istruttiva. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba, vi segnalo adesso una riscoperta che merita davvero di essere riproposta. Il libro di Richard Powell, Vacanze matte, 338 pagine, 18,50 euro, tradotto per Einaudi da Carlo Rossi Fantonetti. Questo libro del 1959 fu pubblicato in Italia da Garzanti nel 1967. L'autore, Richard Powell, era un autore di grande successo negli anni 50 e 60 negli Stati Uniti, anzi anche da questo libro venne ricavato un film modesto con Elvis Presley, lo sceriffo scalzo. Angel, make my wish come true. Let me be in heaven, here on earth. Libro è geniale, secondo me, perché ci fa capire l'America meglio di tanti saggi sociologici e politologici. Addirittura ho ritrovato in questo libro le ragioni che possono spiegare molti tratti del movimento dei Tea Party, tanto attuali in questa fase storica. La storia è quella di una famiglia, i Quimper, con un padre sfaccendato, un figlio narratore, due gemelli pestiferi che sono i fratellini del narratore e una babysitter considerata completamente stupida dal resto della famiglia che invece, grazie alle proprie letture, rivelerà delle capacità indiscutibili di organizzazione. La famiglia vive di sussidi pubblici, il padre perché è capace di destreggiarsi tra i sussidi di disoccupazione, il figlio perché è riconosciuto in modo abbastanza sospetto invalido alla visita di leva. Fin qui sembrerebbe che tutto il mondo è paese, ma poi la svolta. La famiglia si perde in auto in un territorio che è terra di nessuno, si accampa in un pezzo di terra e quando scopre che lo Stato li vuole cacciare da quella sede nella quale hanno trovato non soltanto ospitalità ma addirittura hanno avviato un'attività di lavoro, fanno riemergere l'autentico spirito dei pionieri e come dei novelli Robinson Crusoe si attrezzano, si danno da fare, danno vita a un'autentica attività imprenditoriale, insomma affermano la propria individualità e la propria iniziativa. Il libro è esilarante anche per l'ingenuità assoluta dei protagonisti. C'è per esempio la scena nella quale la famiglia va a chiedere un prestito in banca, la richiesta andrà a finire con un tentativo sospetto di rapina, proprio perché il rapporto tra la banca e questa famiglia è completamente nuovo. Ma sentite queste frasi che appunto secondo me farebbero impazzire il movimento dei Tea Party. Ah, ho capito, rispose papà. È una situazione dove ci siamo già trovati anche noi. È il governo che dice a voi quello che dovete fare, invece di essere voi a dirlo al governo. No, è sbagliatissimo lasciarsi prendere la mano dal governo e permettergli di darsi troppe arie. E addirittura alla fine sarà un giudice che riconoscerà questo spirito. Il giudice, in un processo che vedrà coinvolta la famiglia, assumerà addirittura le funzioni dell'avvocato, tale l'entusiasmo col quale risponde e reagisce alla posizione assunta da questa famiglia. Sentiamo che cosa dice questo giudice. Quel che oggi abbiamo udito attraverso le parole semplici e dimesse di questo bravo giovane è un'epopea americana. Noi abbiamo udito la storia di una piccola famiglia che a un certo momento si è trovata sola in mezzo alla natura selvaggia, resistendo coraggiosamente all'assedio della sete e della fame. Questa gente si è costruita con le proprie mani una fattoria, proprio come fecero 2 o 3 secoli fa i suoi antenati. Questa gente ha resistito respingendo gli attacchi degli indigeni ostili. Noi, vostro onore, ci troviamo di fronte agli ultimi pionieri. Abbiamo sentito che li si accusa di pazzia, ma erano forse pazzi prima di diventare pionieri, quando continuavano a ricevere dal governo sussidi e indennità di disoccupazione e assistenza per i figli a carico, e pensioni per invalidità totale e non so più quali altre diavolerie. No, vostro onore, può darsi che pazzo fosse qualcun altro, ma non certo i Quimper. Sono stati pazzi quando hanno buttato dalla finestra tutta questa roba e si sono messi a vivere con i loro mezzi, da soli, circondati dalla natura selvaggia. Se lo sono stati, vostro onore, allora furono pazzi tutti gli uomini intrepidi che colonizzarono e fecero grande questa nazione. Poc'anzi abbiamo udito questo bravo giovane, che ha parlato in nome di tutti i suoi, riconoscere che furono testardi e capricciosi. Sì, sono testardi. Ma la loro è la testardaggine che ha fatto nascere questo paese. Avremmo bisogno che ce ne fossero ancora tanti di testardi come loro. Alla fine, quando la famiglia è diventata appunto da un gruppetto di gente assistita, un gruppetto di nuovi imprenditori, la scoperta della soddisfazione di non dipendere più dal governo. Show me a girl. Verso la fine di novembre, l'arrivo dei turisti si era fatto regolare e noi facevamo ogni settimana $100 netti, e questo era ancora meglio di quello che guadagnavamo col governo quando papà riceveva il sussidio generale e l'indennità di disoccupazione e l'assistenza per i figli a carico e la mia pensione militare. Era meglio, non solo perché come guadagno era molto più alto, ma anche perché dava più soddisfazione. Un ritorno che può essere messo a fianco di quello di Powell per la capacità di divertire facendoci capire in questo caso un pezzo della storia d'Italia è il libro che raccoglie le opere celeberrime di un grandissimo giornalista, Giovannino Guareschi, di cui Rizzoli comincia a pubblicare tutte le opere. Si comincia con 4 storie di Don Camillo nel libro intitolato Don Camillo e Peppone, pubblicato appunto da Rizzoli, 1134 pagine, €32. Un'altra ripresa di un libro che fu pubblicato all'incirca negli anni di quello di Powell è il libro di Georges Perec, di cui Einaudi ripropone Le cose, 126 pagine, €17,50, tradotto da Leonella Prato Caruso. Questo è un libro del 1965, il cui successo clamoroso rese l'autore, come ironizzava lui stesso, una specie di esperto della società dei consumi. Questa è la storia di una coppia, oggi diremmo di giovani adulti, psicosociologi, ai quali sarebbe piaciuto essere ricchi, leggo dal libro. Credevano che avrebbero saputo esserlo, avrebbero saputo vestirsi, guardare, sorridere come persone ricche, avrebbero avuto il tatto, la discrezione necessari. Non sarà così facile raggiungere questo obiettivo, ed ecco allora che il romanzo diventa, come denunciarono alcuni critici di allora, una sorta di analisi sociologica dei tempi, come dimostrano queste righe che adesso vi propongo. Si erano adagiati nel provvisorio, lavoravano come altri studiano, sceglievano gli orari, bighellonavano come solo gli studenti sanno bighellonare, ma i pericoli incombevano da ogni parte. Avrebbero voluto che la loro storia fosse la storia della felicità. Troppo spesso era solo quella di una felicità minacciata. Erano ancora giovani, ma il tempo passava in fretta. Uno studente anziano è qualcosa di sinistro. Un fallito, un mediocre, è più sinistro ancora. Avevano paura. Avevano tempo, ma anche il tempo lavorava contro di loro. Bisognava pagare il gas, l'energia elettrica, il telefono. Bisognava mangiare tutti i giorni. Bisognava vestirsi, bisognava far rimbiancare le pareti, cambiare le lenzuola, dare a lavare la biancheria, far stirare le camicie, acquistare le scarpe, prendere il treno, comprare i mobili. Talvolta le questioni di soldi li divoravano completamente. Ci pensavano di continuo, persino la loro vita affettiva, in larga misura, ne dipendeva strettamente. Fra loro si ergeva il denaro. Era un muro, una specie di respingente contro il quale urtavano a ogni istante. Era qualcosa di peggio della miseria, il disagio, la ristrettezza, la piccineria. Vivevano il mondo chiuso della loro vita chiusa, senza futuro, senza prospettive che non fossero impossibili miracoli, fantasticherie imbecilli che non stavano in piedi. soffocavano, si sentivano colare a picco. Ritroviamo nelle righe che abbiamo sentito alcuni tratti che dimostrano come evidentemente i tempi non siano troppo cambiati. La fine sarà malinconica, dopo un periodo di solitudine totale a Sfax, infatti i due tornano in Francia e hanno una sorta di abdicazione ai propri ideali che però darà loro il benessere, un benessere fatto di pasti insipidi, come conclude il libro. E quindi questa fine probabilmente potrà consolare quanti pensano che oggi viviamo nel peggiore dei tempi possibili. Un altro grande classico francese, ma qui risaliamo nei tempi, è Honoré de Balzac, di cui Mursia presenta un'operina insolita, La casa del mistero, 80 pagine, 7 euro, tradotto da Giovanna Tira e curato da Beppe Benvenuto. Benvenuto definisce quest'opera un gioiellino noir che spicca per la qualità dell'intreccio narrativo e si fa apprezzare soprattutto per la notevole abilità con cui lo scrittore costruisce una trama dalla suspense crescente. Siamo a Vendôme, dove Balzac trascorse parte dell'infanzia, dove si svolge questa storia dalla scenografia neogotica, come dimostra l'ambientazione. Si parla di tetti della casa terribilmente deteriorati, di persiane sempre accostate, balconi coperti di nidi di rondini, porte costantemente chiuse, di cupo silenzio che regna in quel luogo, turbato solo dagli uccelli, dai gatti, dalle faine, dai ratti e dai topi liberi di scorrazzare, azzuffarsi e scannarsi. Una mano invisibile ha scritto ovunque la parola mistero. E quindi lasciatevi trascinare, scoprendo un Balzac insolito rispetto all'immortale analista della commedia umana. E a questo punto ringrazio Luca Cremonesi in redazione e Mauro De Angeli in regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, libro@radio24.it, e il nostro sito www.radio24.it, dove potete sempre riascoltare questa e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona domenica e vi do appuntamento la settimana prossima.